Sono le 16:10 e direi che è il momento perfetto per iniziare con la nostra intervista di oggi in diretta sui 103.1. Sta per raggiungerci telefonicamente Napoleone. Napoleone è un cantautore che ha già associato il suo nome ad artisti dal calibro di Max Gazzè, Brunori, Levante, facendo da spalla nei concerti campani, ma soprattutto lo ricordiamo per la traccia Solo per un po', presente nell'album di Michele Bravi del 2017, Anime di carta. Nel 2019, assieme a Samuel Romano dei Subsonica e ad Ale Bavo, entra a far parte del team di scrittura e produzione per l'inedito Elefante dei Boda, che si aggiudicano il secondo posto di X Factor. Nel 2020 dà il suo contributo al disco Nuova Genesi di Gaia Gozzi, vincitrice anche lei dell'ultima edizione di Amici. Tra l'altro, anche scrivendo il brano Mi ricordo un po' di me, produce per Georgines il singolo d'esordio del suo terzo disco Maledetta. Dopo Amalfi, Porta Pacenza e Napoleone, con Povero Femmina mette in musica il terzo atto della storia di Vito Manzo, un amalfitano, ma appunto ci facciamo raccontare tutto direttamente da Davide Napoleone, che ci ha raggiunto. Ciao a tutti. Benvenuto Davide, è un piacere averti con noi sui 103.1. Come stai? Grazie mille. Bene, dai. Visto il periodo, abbastanza bene. Beh, effettivamente, visto il periodo, soprattutto anche appunto a livello musicale, non è facile andare avanti, però sei appena uscito con il tuo ultimo singolo, Povera Femmina. Beh, guarda, io, come hai anticipato, nonostante il mio lavoro d'autore, paradossalmente durante la pandemia, durante il lockdown, ho trovato molto tempo da poter dedicare anche ad un mio progetto. Infatti è nato tutto durante il primo lockdown, a marzo, aprile più o meno. Quindi è così. Il periodo da un lato mi ha anche, se vogliamo, spronato ed aiutato a scrivere questo, ad iniziare perlomeno questo progetto. Quindi un lato bello di un periodo che sicuramente bello non è, soprattutto appunto per l'ambiente musicale, per insomma il mondo dello spettacolo, però appunto nasce una nuova spinta, anche ispiratrice, per produrre nuovi brani. Ma precisamente come hai deciso di raccontare la storia di Vito Manzo, che è appunto all'interno del tuo brano Povera Femmina? Guarda, è una storia che mi sono ritrovato tra le mani per puro caso due stati fa. E all'inizio non c'era assolutamente l'intenzione di costruirci attorno un progetto discografico, comunque scriverci delle canzoni, solo che ecco, appunto, diciamo, scavando nella storia di questo personaggio, approfondendo comunque quella che è stata la sua vita, perché lui era un falegname, ma sognava di diventare un musicista, aveva questa forte passione per la musica. Purtroppo non è mai riuscito, diciamo, a realizzare il suo sogno, perché è morto nel 57, molto giovane comunque. E quindi in un certo senso mi sono anche immedesimato nella sua condizione e in qualche modo ho capito che ho vissuto anch'io esattamente alcuni step della sua vita, ma ecco, in un'epoca diversa. Poi io per fortuna sono riuscito, ho avuto anche i mezzi per realizzare il mio sogno, comunque di seguire le mie passioni. Lui invece purtroppo non ci è riuscito, quindi in qualche modo sto, ecco, finendo io il lavoro per lui. Invece scusami se ti interrompo, un altro protagonista dell'album e soprattutto di questa canzone Povera Femmina è la sorella Lucia. Cosa ti ha trasmesso la vicenda appunto di questa donna? Guarda, inizialmente stavo approfondendo solo la figura di Vito, solo che tra i vari documenti è saltato fuori questo certificato di morte di sua sorella Lucia, dove alla voce professione c'era scritto povera. Noi eravamo comunque già a conoscenza del fatto che provenissero da una famiglia comunque non nobile, però questo dato, ecco, sul certificato di morte ci ha fatto anche un po' un attimo riflettere e anche approfondire quella che era la figura e il ruolo della donna in quegli anni. Parliamo comunque del periodo fascista. Non ha avuto, ecco, diciamo, una vita facile, almeno lei come fratello, ovviamente. Come dicevo, in quel periodo comunque, se venivi da una famiglia povera, comunque l'unica alternativa che avevi era, cioè l'unica opzione che avevi era proprio il lavoro. o nel caso della donna quello di rimanere a casa tra le mura domestica e fare la mamma, la moglie, ecco. Ma infatti, cioè, di fatto tu stai raccontando un po' anche in questi brani la storia, o soprattutto appunto com'era la storia in quegli anni. Poi diciamo che fortunatamente tante cose negli anni sono cambiate, come ad esempio anche la figura femminile nella società. Ma ad esempio in questo album, dove appunto racconti la storia di Vito, racconti forse in un qualche modo anche il legame con la Campania? Beh, certo, principalmente forse... Ho anche iniziato questo progetto per un po' sentirmi anche per dare qualcosa alla mia terra, perché comunque vivo ormai da 5 anni lontano dalla mia terra d'origine, ora vivo a Torino, quindi forse anche proprio il fatto di stare così lontano mi ha anche dato possibilità di avere una visione diversa di quella che era di quello che è il posto da cui poi provengo, da dove sono nato e cresciuto, quindi riesco a guardarlo anche un po' più con un'ottica esterna, e quindi in quel senso riesco anche forse a raccontarlo meglio. Effettivamente quando si vivono le cose forse facendo un passo indietro, quindi allontanandosi, quindi vivendo a Torino, magari hai riscoperto un po' la tua terra di origine. Tra l'altro hai numerose collaborazioni, quali pensi sia stata quella più importante per la tua crescita e carriera artistica? Beh, guarda, in realtà sono state fondamentali tutte, ognuna, ecco, per un motivo diverso. Poi, cioè, ogni volta per me è comunque una palestra. Sono dell'idea che poi soprattutto nel campo artistico non si finisce mai di imparare, cioè, non c'è mai un punto d'arrivo. Per fortuna l'arte, il bello dell'arte è che è fatto per lo più di trasformazione, quindi non direi che c'è stato, ecco, un brano in particolare che mi ha a cui sono legato di più, però di certo forse il brano scritto per Michele Bravi è quello che mi ha dato, ecco, la spinta e comunque l'opportunità di fare, ecco, della mia passione, il mio lavoro. Anche perché poi il bello dell'arte, noi tra l'altro all'interno del nostro mercoledì di Fujiko Factory oggi abbiamo parlato di museica, cioè l'arte mischiata alla musica, e forse la cosa anche più bella della musica è proprio la cooperazione, la collaborazione tra diversi artisti, quindi è bello in realtà leggere, insomma, nei tuoi lavori precedenti quanta collaborazione con diversi artisti c'è stata, perché poi più si lavora insieme più forse aumenta anche la creatività. Beh, guarda, io sono sempre del parere che, come dicevano anche i vecchi jazzisti, no? Il jazz comunque è nato con quella filosofia, la musica va fatta insieme, la musica è comunque condivisione, secondo me non risulta nemmeno interessante se poi è frutto di un solo punto di vista. E infatti anche nei brani che comunque sto scrivendo di questo progetto mi sto affiancando ad un produttore bravissimo che si chiama Paolo Caruccio di Torino, con il quale arrangio i brani, a cui lascio, ecco, la parte strumentale proprio per avere una contaminazione esterna. Contaminazione che appunto nella musica, nella produzione di un disco e di un singolo è sicuramente la parte vincente. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi sui 103.1 e per averci raccontato, insomma, la tua carriera artistica, ma soprattutto Povera Femmina, che ora ci ascoltiamo. Grazie mille a voi. Un saluto e noi ci ascoltiamo Povera Femmina. Ciao. Povera Femmina, affezionata a questo mare, non hai visto nessuno tornare, e lasci tutto quello che puoi dare. Povera femmina, occhi scuri come questo fondale, sei pronta all'ultimo cambio di stagione prima di partire. Luci, pensa ogni tanto, chiudo gli occhi e pensi che non ne ho vero, che stai lontano. Povera femmina, detto non ti preoccupare, è normale. Prima o poi bisogna anche viaggiare e lasciarsi andare. Chi te no mare porta una croce e da sto mare tu siete voce de sirene. Ecco come dopo da risponda, ma non porta si canisciuna da credere. Ogni tanto